Voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori e benvenuti a Voto Antonio, penultima puntata, quantomeno prima della chiusura estiva della trasmissione, puntata che come le altre di luglio è una puntata con meno argomenti di attualità, nel senso che non abbiamo il punto settimanale di Stefano Folli, ci dedichiamo a qualche altro argomento di approfondimento, ma magari correlato alle cose delle quali parliamo tutti i giorni. Allora, questa settimana ci occupiamo innanzitutto di razzismo. Vogliamo partire da quelle che sono le dichiarazioni che ben conoscete di Roberto Calderoli sul ministro Kyenge. Poi Calderoli, come sapete, si è scusato. E però il punto non sono tanto quelle dichiarazioni dal palco, ma le reazioni che queste dichiarazioni hanno suscitato. Ho raccolto, e vi invito ad andarci a dare un'occhiata, ho raccolto sul mio blog, che trovate sul sito della radio, qualche commento su Facebook. Sono commenti su Facebook ad uno status di un consigliere regionale veneto, il quale diceva: dovremmo chiedere scusa all'Orango. Anche di questa storia avete sentito parlare. Ebbene, ho notato con una certa sorpresa, forse sbaglierò io, però l'ho notato con sorpresa, che molti concordavano con tutto questo, e addirittura su quella pagina Facebook continuavano a dare della scimmia al ministro Kyenge, e addirittura a dire che appunto bisognerebbe chiedere scusa alle scimmie. Ce ne sono parecchi su questi toni. Allora, quello che vogliamo affrontare è la questione del razzismo online, se c'è un modo diverso di combatterlo, quali sono i dati, qual è la situazione, qual è lo stato dell'arte. E poi, nella seconda parte della trasmissione, invece, ci occuperemo di trasparenza, perché c'è stato un evento durante questa settimana, mercoledì sera per essere esatti, un cosiddetto social mob, una sorta di mobilitazione online organizzata da Open Polis per ottenere una maggiore trasparenza dei lavori nelle commissioni parlamentari. Ora, come sapete, una parte del lavoro del Parlamento si svolge in quell'aula che siamo abituati a vedere, ma gran parte del lavoro in realtà si svolge all'interno delle commissioni, dove vengono affinati i provvedimenti, dove vengono realizzati anche degli accordi sui provvedimenti. Ebbene, Open Polis chiede maggiore trasparenza, ha raccolto l'adesione di una serie di parlamentari, ce ne sono altri che sono contrari. Attenzione però, non con motivazioni, insomma, di dire vogliamo tenere tutto segreto, con delle motivazioni piuttosto interessanti e di cui vale la pena discutere. Ebbene, incontreremo sia i rappresentanti di Open Polis che uno di questi deputati, che è piuttosto scettico sul tema. Voto Antonio, come la rete cambia la politica. Ed eccoci qua, come si diceva prima della viabilità, adesso ci vogliamo occupare di razzismo online, vogliamo capire un po' dimensioni del fenomeno, come combatterlo, quali possono essere le linee di prevenzione anche, ma anche raccontare storie e vedere che cosa sta succedendo. Iniziamo da Said Kaibi, buongiorno. Salve, buongiorno. Che è consigliere comunale a Treviso, allora, e che immagino da nome e cognome che viva un po' sulla sua pelle il problema. Ma guardi, io ho vissuto durante l'ultima campagna elettorale sulla mia pelle le discriminazioni e il razzismo che purtroppo ha aleggiato per troppo tempo nelle sedi istituzionali anche del comune di Treviso. Per fortuna di cose siamo riusciti a cambiare l'amministrazione, per cui mandare anche a casa un sindaco che è fatto come si è fatto faro del razzismo a livello nazionale, con le sue uscite, con le sue sparate, che sono sempre state prese un po' così, no? Nel senso, qualcosa di ridicolo, una battuta, ma in realtà celavano molto di più, celano una mentalità, una subcultura, celano l'elemento del razzismo istituzionale che ancora oggi in Italia non riusciamo ad affrontare e non riusciamo a superare. Ci dica un po', Caibi, da dove viene la sua famiglia? Perché chiaramente dall'accento che sentiamo lei è completamente italiano, anzi direi veneto, proprio perché si sente, insomma. La cosa più comica è quando cerco di parlare in marocchino e ho l'accento veneto, quello non lo cambio. Viene dal Marocco la sua famiglia? I miei genitori sono tutti e due dal Marocco e io sono nato qui. Sente una cosa, ma che cosa le dicevano? Ma guardi, la cosa più assurda e allucinante che è capitata durante la campagna elettorale è stato questo volantino in cui in pratica prendevano un mio post su Facebook in merito alle dichiarazioni di Gentilini sulla pena di morte per il piccolo di Milano, e decontestualizzando una mia affermazione loro dicevano appunto che io ero favorevole alle azioni portate avanti da Cabobbo e che volevo costruire le moschee in giro per Treviso, per cui no, siccome in questo territorio non si è mai affrontato il tema della multireligiosità, le moschee vengono vissute ancora come un elemento di paura. Il punto un po' che fa sorridere è che io dentro questa dinamica qui sono laico, completamente laico. Anche questo è interessante. Allora, adesso poi ritornerò da lei perché c'è una denuncia che lei ha presentato contro un sito del quale ci si è occupati spesso, in realtà senza mai arrivarne ad una, a dire il vero. Intanto saluto Antonio Giuliani dell'UNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antirazzismo. Mi dica se ho svolto bene l'acronimo. Diciamo che l'acronimo è già una nostra invenzione, perché se le dico qual è il nome vero dell'ufficio... No, ce lo dica, a questo punto ce lo dica. Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sull'origine etnica o razziale. Puoi immaginare che è stato molto più semplice creare Giuliani, lei non ha questo sul biglietto da visita, sì? No, c'ha scritto anche una. Perché all'inizio dalla nostra creazione le telefonate ci venivano chiuse in faccia appena incominciavamo a dire il nome dell'ufficio, naturalmente. Non arrivavamo mai alla fine. E immagino che l'email alla fine sia UNAR, perché sennò sarebbe complicato anche là il dominio. Allora ci dica, ci dà un'idea dal punto di vista web puramente, perché è di questo che stiamo parlando, della dimensione del fenomeno, che percezione avete voi? Ma la percezione è che le discriminazioni veicolate attraverso il web ormai rappresentano quasi la maggioranza. Il termine veicolato non vuole essere un tecnicismo. Cito uno studioso che tutti conoscono, Rodotà, il quale giustamente dice, con le pagine dei giornali, senza voler naturalmente offendere i giornali, ma con le pagine della carta stampata, il giorno dopo ci si incarta il pesce, il web invece continua a essere presente e a rimandare, a rimbalzare, a gonfiare la notizia. Quindi anche il fatto che una determinata notizia sia veicolata attraverso internet è molto importante. Nel 2012, su 1283 casi di discriminazione, il 41% sono stati veicolati attraverso internet, ma all'interno di questo 41%, il 30% sono proprio discriminazioni commesse attraverso internet, quindi attraverso i siti web, attraverso i social network. Questo è indice di un confine. Come avviene? Mi scusi, prego. Giuliani, se ho ben presente come si può commettere, come si può scrivere qualcosa su internet che sia intrinsecamente razzista, come si attua una discriminazione su internet? Allora, la discriminazione ha tre forme, come dire, le definizioni di discriminazione sono la discriminazione diretta, indiretta e la molestia. È chiaro che, senza andare a spiegare le varie definizioni, o se vuole ci possiamo addentrare, la forma di discriminazione che più si compie attraverso internet è la molestia, quindi chiaramente l'insulto razzista o la esplicitazione di pensieri discriminatori. La discriminazione diretta è chiaramente più difficile da compiere via internet. Mi viene da pensare a una discriminazione, le più semplici sono quelle istituzionali, se vogliamo, nel senso che una norma scritta e chiaramente riportata attraverso internet che crea essa stessa una discriminazione. A me ha sempre colpito quella presente nel codice dei beni culturali sul fatto che, per esempio, l'accesso ai musei pubblici viene consentito con un prezzo scontato solamente ai minori italiani o della Commissione europea, che fa pensare che se la ratio è quello del massimizzare l'accesso alla cultura per i bambini, per i minori, probabilmente questa forma di discriminazione forse non è proprio ben motivata. Però ecco, molestie, soprattutto molestie. C'è un punto interessante che vorrei sottoporle, perché poi ieri invece in 9 in punto abbiamo affrontato l'argomento più in generale e abbiamo parlato anche col viceministro Guerra, soprattutto a livello generale, non a livello web, chiedendole se si è notato un incremento di questa tendenza causa crisi, perché il ragionamento è: cosa fa la crisi? Ci spinge a chiuderci in noi stessi e fa uscire in certi casi il peggio, no? Il famoso ragionamento: l'immigrato mi ruba il lavoro, eccetera, eccetera. Allora vorrei capire se questi segnali li avete percepiti anche allora, in rete. Dalla nostra antenna, dal nostro numero verde, anzi, se mi permette, io approfitto sempre di ogni modello. Prego, prego, lo dica. L'890-1010, 890-1010 per segnalazioni, controlli, discriminazioni o anche se si è o vittima o testimoni. Sì. Diciamo, dal nostro punto di vista, dal nostro punto di così panoramico, abbiamo notato già nel 2013 un incremento delle discriminazioni veicolate attraverso internet. Siamo passati dal 41 al 46%. Quindi effettivamente già questo è un segnale. Poi esistono degli studi ormai abbastanza acclarati, secondo i quali c'è una stretta attinenza fra la crisi economica o la condizione di povertà e l'esplicitazione di messaggi discriminatori. È chiaro che, usando un linguaggio più semplice, più la coperta si accorcia e più naturalmente si tende a creare una guerra fra poveri. C'è sicuramente uno stretto legame, è indubbio. E questo è un elemento interessante, ne parlavamo ieri, ne abbiamo parlato tra l'altro, appunto, se volete, cari ascoltatori, andarvi a riascoltare la puntata di ieri di 9 in punto. Abbiamo parlato anche col corrispondente da Roma della TV pubblica, o quel che ne rimane della TV pubblica greca, parlando proprio del caso di Alba Dorata. Dunque, Said Kaibi, allora, voi avete presentato denuncia, lei e, se non sbaglio, un suo collega, avete presentato denuncia contro un sito, questo sito che si chiama, mi pare, Tutti i crimini degli immigrati, una cosa di questo genere, ed è un sito che si propone come una sorta di news aggregator, un aggregatore di news solo su fatti di sangue o crimini compiuti da immigrati. Sì, noi abbiamo fatto denuncia, ci stiamo attrezzando anche per arrivare al massimo risultato, nel senso riuscire a trovare realmente chi è il mandante di questo sito, perché non a caso è intrinsecamente legato poi con le notizie politiche messe in campo sia dalla Lega Nord che da Forza Nuova. Questo sito utilizza sempre delle notizie prese dai giornali locali, ma soprattutto fa una rivisitazione totale delle notizie. Ad esempio, vi dirò questa cosa in diretta, anche un'esclusiva: una settimana fa qui a Treviso è successo un episodio di violenza per cui un ragazzo marocchino ha aggredito un altro ragazzo e gli ha rubato il telefonino, e quel ragazzo sono io. Nel senso, sul sito è uscita fuori questa notizia e con la citazione della mia persona con la foto, con scritto "guarda il marocchino" in alto a sinistra con la mia foto, per cui è anche un luogo di diffamazione. Quindi l'hanno anche diffamata? Cioè, lei ci conferma che non ha rubato il telefonino, Kaibi? No, guardi, tutto il mio che è anche un po' rotto, non ti preoccupi, però sono andato a prendere un telefono e lo vado a comprare. No, il punto è questo, sono dei siti che sono fatti ad hoc per creare dei meccanismi di subbuglio, subculturale, la guerra tra l'ultimo e il penultimo, prima lei citava anche la questione di come la crisi economica ha infierito poi sull'aggravamento delle discriminazioni. Guardi, io vengo da un territorio in cui la paura di perdere il posto di lavoro è sempre stato un elemento anche di ricatto della classe lavoratrice, e ancor prima del 2003 in questo territorio, in questa regione, si è utilizzato l'immigrato come modello da escludere dalla società, e per cui averne paura e stare sempre attenti. E questi sono dei problemi che una società in seria crisi economica e sociale deve porsi per trovare una soluzione, per trovare una prospettiva che sia credibile, che sia di cambiamento. Si parlava delle discriminazioni sui musei, i bambini, la differenza tra comunitari ed extracomunitari, e posso citare un altro esempio, c'è anche il gravissimo problema dei bandi pubblici e dei concorsi, in cui gli immigrati, anche avendo le competenze, i titoli e le qualifiche, vengono discriminati quasi per il 90% delle volte, perché tutti i bandi di concorso, tutti i bandi di gara vengono costruiti con la richiesta della cittadinanza, per cui dobbiamo seriamente capire quale può essere lo strumento migliore per uscire fuori da questi meccanismi, perché allora o accettiamo che la cittadinanza l'abbiamo tutti, perché la cittadinanza è quello status che garantisce dei diritti, o se no decidiamo che non è primario essere cittadini, e allora allo stesso punto però diamo la garanzia di poter avere dei diritti a tutti. Allora, vorrei, siamo quasi in chiusura. Ah, Caibi, tra l'altro, a questo punto li denuncia anche per diffamazione questi di quel sito. Sì, ma non solo loro, anche il comitato elettorale della Lega Nord, perché prima mi sono dimenticato di dirle, il volantino che hanno fatto, ne hanno fatte 160.000 copie, casa per casa, macchina per macchina. Ah. È stato un altissimo atto di diffamazione anche quello, perché poi se lei va a vedere la foto, è una foto un po' ambigua di una manifestazione, eccetera, eccetera. E li ha già denunciati, sì. Guardi, adesso mi sto sistemando con il mio avvocato, ho fatto la conferenza stampa, stiamo aspettando una nostra parlamentare, Celeste Costantino, che mi ha seguito fin dall'inizio, e le do un'altra notizia, un'esclusiva anche questa. Abbiamo anche chiesto un'interrogazione parlamentare che è stata depositata, per cui a breve avremo l'interrogazione in Parlamento con prima firmataria Celeste Costantino, Giulio Marcon e Alessandro Zan, e poi firmata da tutto il gruppo parlamentare di Sinistra Ecologia e Libertà, per chiedere a grande voce cosa intenzione fare il governo su questi temi. Allora la fermo e voglio chiudere invece con Antonio Giuliani. In un minuto, riesce a dirmi che cosa si può fare contro cose di questo genere, per esempio come contro un sito di quel tipo? Secondo lei, insomma, gli strumenti ordinari bastano oppure no? Allora, è chiaro che internet è difficile da affrontare. Noi ogni volta che ci troviamo di fronte a queste situazioni attiviamo immediatamente la polizia postale, abbiamo un canale diretto con la polizia postale, con l'OSCAD, che è l'Osservatorio contro le discriminazioni del Ministero dell'Interno, ma è chiaro che quando i server sono fuori dall'Italia c'è veramente poco da fare, manca una normativa internazionale tale che ci consenta di intervenire anche in questi casi. Devo dire che noi proprio in questi giorni stiamo avendo delle riunioni con gli operatori più importanti dei social network e degli importanti browser, non posso fare nomi come puoi immaginare, anche per non fare pubblicità, però insomma i big dei browser, dei motori di ricerca, proprio per cercare attraverso loro e insieme a loro un modo per arrivare a oscurare o comunque a cancellare questi messaggi. È inutile dire che la strada, che probabilmente è la migliore da perseguire, è quella di arrivare a favorire un'autoregolamentazione da parte degli utenti. Noi siamo convinti che non si possa fare solo repressione se non si riesce a convincere gli utenti del web che il web deve essere uno strumento di comunicazione e non di offesa. Allora noi speriamo, anche attraverso un tavolo che è stato creato anche con il Dipartimento della Gioventù e che ha avuto una riunione, l'ultima riunione dell'8 di luglio, speriamo che attraverso il coinvolgimento dei ragazzi, soprattutto delle reti giovanili, degli utenti stessi, si arrivi a un codice di autoregolamentazione. La prevenzione è fondamentale, la prevenzione fatta fatta insieme agli utenti è fondamentale. Dopodiché è assolutamente innegabile che quando c'è un reato, quando c'è una discriminazione, bisogna intervenire per reprimerla e per cancellarla. Naturalmente, il problema della repressione, come sempre, è che... quando arriva, arriva troppo tardi, nel senso che il fatto è stato già compiuto. Grazie dunque ad Antonio Giuliani, a Said Kaibi per essere stati con noi. Noi adesso ci prendiamo una pausa, ci ritroviamo tra un attimo e parliamo di trasparenza online dei lavori delle commissioni parlamentari. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci di nuovo, cari ascoltatori, dopo aver parlato di razzismo online, torniamo su un argomento del quale ci siamo occupati spesso in questa trasmissione, ed è la questione della trasparenza per quanto riguarda gli atti del Parlamento. Un tema che ovviamente è stato sempre presente e che si è posto con particolare forza ovviamente nel momento nel quale i deputati e i senatori del Movimento 5 Stelle sono entrati in Parlamento. È stata fatta una grossa pressione da questo punto di vista, episodi che abbiamo già raccontato, come per esempio lo streaming delle consultazioni. Come sapete, ne abbiamo discusso ospitando posizioni differenti. Io la mia già l'ho espressa, mi rende un po' perplesso tutto questo, però avremo modo di parlarne e ne parliamo oggi confrontando due opinioni differenti, anche sulla base di un'iniziativa che c'è stata questa settimana. Saluto Vincenzo Smaldore di Open Polis, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori accanto. E Giorgio Tonini, deputato del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno, senatore, per la verità. Senatore, oddio, chiedo scusa, abbia pazienza. Abbia pazienza. Allora, Smaldore, iniziamo da voi, perché parte tutto da voi. Avete lanciato un'iniziativa che si chiama Parlamento Casa di Vetro. C'è stato quello che avete definito un social mob. In internet, naturalmente, nel corso di questa settimana, per la precisione mercoledì sera. Ci spieghi un po' in cosa consiste, che cosa volete fare, che cosa chiedete? Noi abbiamo lanciato questa campagna per chiedere la trasparenza delle commissioni parlamentari, perché nella nostra immagine noi colleghiamo l'idea di Parlamento alle grandi aule di Montecitorio, di Palazzo Madama, o alle figure dei presidenti di Camera e Senato, però invece il cuore dell'attività legislativa del Paese avviene nelle commissioni, e sostanzialmente di quello che succede là dentro sappiamo ben poco. Per poter rimuovere questo strato di opacità, secondo noi si potrebbero fare due riforme immediate a costo praticamente nullo, e sono l'introduzione dei resoconti stenografici e l'introduzione del voto elettronico. E sono due modalità che il Parlamento già conosce perché adotta per l'Aula, quindi non parliamo di niente di strano, e abbiamo chiesto ai parlamentari di aderire. Attraverso il nostro sito Parlamento Casa di Vetro è possibile visualizzare l'elenco di chi ha aderito e di chi no, quindi abbiamo lanciato questo social Come siete messi a livello di adesioni? Al momento hanno aderito 250 parlamentari. Tra Camera e Senato. E chi è che ha aderito di più tra i gruppi? Se andiamo a vedere la percentuale rispetto al numero complessivo dei membri, i 5 Stelle sono quelli che hanno aderito di più, circa la metà dei parlamentari 5 Stelle. Quindi non tutti in realtà, non tutti. Non tutti. Poi viene Sello col 40%, poi viene Scelta Civica col 28%, il PD col 26%, il PDL è, fra i gruppi più grandi, è quello che ha aderito di meno, perché è solo il 6%. C'è anche chi non ha visto l'adesione di nessun membro, per esempio Fratelli d'Italia, nessuno. Quanti sono i deputati e i senatori dei Fratelli d'Italia? Loro sono 9. Capisco, poi dobbiamo, un valore politico. Però dobbiamo anche guardare i numeri assoluti, perché se poi ne aderiscono due diventa tipo il 20% o qualcosa di più. Comunque vabbè, insomma, questo è un discorso a parte. Allora, Giorgio Tonini, io so, perché ci siamo parlati prima della trasmissione, naturalmente, che ha qualche perplessità su tutto questo. Da cosa deriva? Sì, ha usato la parola giusta, e perplessità, perché io non sono contrario alla campagna di Open Polis in generale, perché penso che ci sia bisogno di più trasparenza nella pubblica amministrazione, nello Stato e anche in Parlamento. Per esempio, io sono convinto sostenitore del fatto che su internet ci debbano essere tutti i dati patrimoniali e di reddito degli eletti, cioè l'anagrafe, la famosa anagrafe dei redditi e dei patrimoni degli eletti, e deve cominciare dal Parlamento. Adesso è possibile, io sono stato tra i primi a mettere tutti i miei dati su internet, quindi insomma io simpatizzo per questa causa. E quindi le obiezioni che faccio sono obiezioni, per così dire, dall'interno e non da chi vuole tenere delle spesse tende scure, no, per impedire che la luce entri dentro quella casa di vetro che deve essere il Parlamento. Però da ormai vecchio parlamentare, perché sto in Parlamento da 12 anni, quindi sono uno dei vecchi parlamentari, io ho imparato che in Parlamento ci sono due dimensioni, una è quella dell'aula e l'altra è quella della commissione, come del resto veniva correttamente detto. Nell'aula, l'aula è una specie di teatro e quindi va in scena il gioco delle parti, è rarissimo, praticamente non succede mai che in aula qualcuno cambi idea. Al limite può succedere che si trova un qualche aggiustamento di qualche testo minore, ma insomma nell'aula prevalentemente va in onda, va in scena lo spettacolo della contrapposizione, anche la contrapposizione molto chiara, molto forte tra chi è il governo e chi è l'opposizione. E questa cosa è, diciamo, sotto gli occhi di tutti, quindi ci sono, c'è lo stenografico, c'è la diretta televisiva, comunque adesso c'è lo streaming, quindi si può guardare in diretta attraverso i siti internet. Dopodiché invece in commissione, se la commissione, bisogna distinguere due tipologie, la commissione che lavora per fare l'istruttoria dei lavori che poi devono andare in aula, oppure la commissione che lavora come fosse una piccola aula. Se la commissione lavora come fosse una piccola aula, la famosa sede deliberante, è chiaro che usa le stesse regole dell'aula, quindi c'è... Lo chiarisco per gli ascoltatori, in sede deliberante vuol dire che se la commissione approva è legge come se l'avesse votata il Parlamento. Come se l'avesse approvata l'aula. E quindi, diciamo, lì valgono le stesse regole, come è giusto che sia. Se invece la commissione lavora come sede referente, quindi istruttoria, per così dire, del provvedimento che poi deve andare in aula, prevale la dimensione dell'informalità. Io penso che questa dimensione di informalità sarebbe un errore se venisse espulsa dalle regole del Parlamento, perché il Parlamento è il luogo nel quale ci si scontra, ma deve essere anche il luogo nel quale ci si parla, si dialoga e si prova a cambiare idea, a farsi cambiare idea reciprocamente. Questa cosa oggi succede in commissione, mentre non succede quasi mai in aula, in commissione succede, e questo io lo considero un bene comune prezioso, che se noi invece trasformiamo sempre i lavori della commissione come fossero lavori dell'aula, togliamo dalla formalità, per così dire, del regolamento del Senato o della Camera questa dimensione, e questa dimensione dovrà trovare poi altre sedi fuori dal Parlamento per esercitarsi. Che è peggio, che è peggio. Un errore. È certo che è peggio che rispetto al fatto che avvenga invece comunque all'interno del Parlamento. L'obiezione è interessante, un'obiezione che avevamo già portato alla luce quando parlammo delle consultazioni in streaming, consultazioni che sono avvenute in streaming che sono diventate a quel punto una sorta di palcoscenico per esaltare le contrapposizioni piuttosto che cercare una composizione degli interessi, che alla fine è quello che probabilmente deve anche fare il Parlamento, insomma, senza scontrarsi necessariamente su norme che magari sono di buon senso proposte da una parte o dall'altra politica. Allora, dato che l'obiezione mi sembra sensata, e su questo voglio sentire Vincenzo Smaldore che cosa ha da dire, che cosa hanno da dire da Open Polis. Tra l'altro io ho dimenticato di dirvelo naturalmente, ma insomma con con le persone di Open Police abbiamo già parlato in questa trasmissione, però mi fa piacere ribadirlo. Andate a visitare Open Police perché è una miniera di informazioni sul lavoro del Parlamento e fanno un lavoro straordinario da questo punto di vista, cioè un supporto alla trasparenza che è straordinario. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci di nuovo. Come dicevo, Vincenzo Smaldore, a me l'obiezione di Giorgio Tonini sembra, in tutta sincerità, abbastanza sensata. Se vogliamo ragionare, ma veramente ragionare, senza il preconcetto che ci sia l'inciucio, e invece ragionando sul fatto che si possa raggiungere un accordo senza un palcoscenico sulle cose vere, a me sembra un'obiezione sensata. Voi che cosa dite? Ma dico due cose, no? Allora, la prima è che proprio per quello che ha detto il senatore Tonini, cioè che nell'aula sostanzialmente, per utilizzare parole sue, c'è uno spettacolo, è un teatro, no? È importante e interessante che noi riusciamo ad avere conoscenza e trasparenza di quello che succede veramente in Parlamento e quindi trasparenza delle commissioni parlamentari, perché se no altrimenti non si può parlare di trasparenza. E dopodiché, se il problema è che i politici non hanno attualmente la capacità di confrontarsi in maniera diretta, civile allo stesso tempo e di far valere le ragioni del paese quando si confrontano, è un po' un problema loro, nel senso si devono abituare a questo modo forse nuovo di far politica, nuovo però per l'Italia, perché invece anche in ambito internazionale da tempo si riflette su che cosa vuol dire per un'istituzione rappresentativa come un Parlamento essere trasparente. E quindi, ma c'è qualcuno che la fa questa cosa? Mi scusi, dato che siamo l'unica repubblica parlamentare del mondo. Esatto. Il tema della votazione elettronica è un qualcosa che nelle commissioni i grandi paesi europei già tutti hanno, cioè la Francia, la Gran Bretagna, anche la Spagna, la Germania. Bene, e hanno anche lo stenografico, il resoconto, Smaldore? Stenografico può essere a richiesta, nel senso che non ci sono degli obblighi, però quando una parte, poi dipende da paese a paese, alcune volte un quinto, altre volte un terzo dei membri della commissione lo richiedono, allora viene inserito. Però fondamentalmente per noi diventa molto interessante focalizzarci soprattutto sul voto elettronico, perché quello è l'unico modo che permette di strutturare un'informazione e quindi di sapere non solo ogni parlamentare come ha votato, ma anche in modo anche più semplice chi semplicemente era presente o no ai lavori della Commissione, che sono dati che attualmente non abbiamo, perché il sistema di voto elettronico significa che il parlamentare mette la scheda o mette un qualche altro aggeggio dentro un bussolotto che rileva la sua presenza, rileva come ha votato, e quindi questo ci permette di avere una serie di informazioni, di poterle strutturare, di poter anche rendersi conto sia su un singolo provvedimento che cosa è successo, ma poi anche in maniera più complessiva, se si analizza un dato periodo di tempo, per esempio si può sapere chi sono i parlamentari più assenti, chi sono quelli che partecipano di più e così via. Questa cosa della presenza e dell'assenza è anche una cosa interessante, perché la si può collegare alla diaria, quindi a quanto prendono i parlamentari. Attualmente questo discorso è legato alle presenze delle sedute, ma questo non è il modo corretto di rilevare le presenze dei parlamentari, perché anche qui in tutto il mondo, almeno quello democratico, vengono rilevate sul voto elettronico, perché c'è una seduta, quindi c'è una riunione, dentro questa riunione magari sono 100 voti, capita che i parlamentari magari firmano all'inizio, poi vanno via e vengono conteggiati come presenti, no? Sì. Quindi, il voto elettronico è un meccanismo. Ok, sul voto elettronico, mentre invece sullo stenografico mi sembra di capire che si possa ragionare. Brevemente, Smaldore, che voglio poi dare la parola a Tonini per una risposta su tutto questo. Sullo stenografico si può ragionare, dice lei. Si può ragionare, guardi, sono due pezzi secondo noi di una campagna, comunque. che dire, io sarei interessato a sapere, ad avere conoscenza di tutto il pacchetto, cioè chi è presente in commissione, che cosa dice e come vota. E come vota. All'interno allora... di un discorso in cui il cittadino riacquista un po' il legame col politico. Ho capito, diventa più responsabile. Ho capito Smaldore. Allora Tonini ha sentito le obiezioni di Smaldore, dice insomma alla fine se non riuscite a, come dire, a trovare un accordo sulle cose concrete, sulle cose di buon senso, ragazzi, è un problema vostro, mica nostro, noi dobbiamo sapere. Sì, questo vostro e nostro, mi consente di dire, è sempre pro tempore, perché tra, non so, magari anche solo un anno potrebbe succedere che siamo a parti invertite, cioè che c'è lui al Parlamento e io faccio giornalista, come era il mio mestiere, quindi siamo tutti pro tempore in Parlamento, siamo, come dicono i grillini, siamo tutti pro tempore in genere, diciamo, poi in genere, diciamo, a maggior ragione come eletti, diciamo, siamo cittadini pro tempore, che pro tempore fanno questa funzione di, diciamo, questo grande onore e grande responsabilità di rappresentare gli altri cittadini nelle istituzioni. Io sono d'accordo sulla parte rilevazione presenze, diciamo la parte fiscale per così dire, che vuol dire controllare se uno lavora o non lavora, io sono assolutamente d'accordo. Stimo Open Policy anche perché nell'elaborare le statistiche mette sempre in guardia dal fatto che i dati sono anche sempre un po' rozzi, per esempio un senatore può fare una importantissima dichiarazione di voto o un importantissimo intervento in aula e magari per preparare quell'intervento ha mancato qualche votazione, non conta niente dal punto di vista statistico che abbia fatto un importante intervento che magari è stato decisivo, che ne so io, per l'indirizzo che hanno preso le cose, e invece viene penalizzato perché ha mancato 10 votazioni, quindi bisogna sempre stare attenti anche a questa, la dimensione fiscale portata all'estremo può portare anche dei paradossi, no? Che i più stupidi, quelli che pigiano solo il pulsante, sono quelli più premiati, sì. Ma loro lo sanno questo e avvertono il lettore delle loro statistiche che bisogna sempre stare attenti a questa deformazione. Quindi in commissione, per esempio, il voto è davvero una parte minima del lavoro e il lavoro che conta di più è proprio il lavoro di dialogo. Allora io non ho nulla in contrario che sia irrigidito l'aspetto appunto fiscale per misurare le presenze, per misurare il voto quando si vota nel modo appunto formalizzato, invece io ci terrei a conservare in Parlamento una dimensione di informalità che deve servire a parlarsi senza la corazza della parte che si deve recitare nella commedia. Perché naturalmente in politica c'è anche questo, io devo fare la parte del senatore del PD, perché è giusto che sia così, e c'è un altro che deve fare la parte del senatore di 5 Stelle o del PDL, però di fronte a un problema ci si aiuta a trovare una soluzione se c'è una fase del lavoro parlamentare in cui si dismette la corazza e si prova a parlarsi in maniera più diretta. Se questo non succede in commissione si troverà un altro posto in cui questo avviene, ma sarà un posto intanto non istituzionale, e quindi dove si va? A casa di qualcuno, si va in un bar, si va in un ristorante, cioè si fanno poi i patti delle crostate, insomma, sì. E questo non è la parte meno buona della politica, insomma. La vicenda di 5 Stelle dello streaming, loro sono entrati in Parlamento con l'idea della trasparenza totale, poi quando hanno dovuto fare le loro riunioni difficili, perché ogni gruppo ha le riunioni difficili, hanno tolto lo streaming. E questo lei dice, fa lei parte dice, della vita, lei dice accettare che c'è una dimensione, come dire, che non tutto è sempre necessariamente solo pubblico, nell'interesse del buon andamento dei lavori. E nello stesso interesse, dice lei della buona amministrazione. Bene, io vi ringrazio. Allora, dato che l'argomento lo trovo molto interessante, prometto agli ascoltatori che se Votantonio proseguirà dopo agosto, insomma, da settembre, su questo tema ci torneremo. Grazie intanto a Vincenzo Smaldore e a Giorgio Tonini per questo bel confronto di opinioni. Grazie a Filippo Oreggi in regia, a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo la settimana prossima. Italia! Thank you.